Fiosetta sofisticata, tu devi fare se vuoi farti guardare, se vuoi rubare i cuori nel gioco dell'amore. Che smorfiosetta modernizzata, ripeteranno nel vederti passare. Tu devi sorridendo con tutti un po' scherzare. Devi andare a scuola pettinata con la coda di cavallo e comprare i dischi col singhiozzo se vuoi cantare Deo, Deo. La smorfiosetta sofisticata tu devi fare se vuoi farti guardare, se vuoi rubare i cuori nel gioco dell'amore. Il mondo d'oggi di smorfiosetta ti vuol così. Con la coda di cavallo e comprare i dischi col singhiozzo se vuoi cantare Deo, Deo. La smorfiosetta sofisticata tu devi fare se vuoi farti guardare, se vuoi rubare i cuori nel gioco dell'amore. Il mondo d'oggi di smorfiosetta ti vuol così, ma in confidenza così come sei tu, mi piaci molto di più.